Ad alta voce, Patrizia Zappamulas legge Nemici, una storia d'amore, di Isaac Singer. Traduzione di Bruno Dera. Herman sedeva sull'autobus che andava da Union Street a East Broadway e guardava fuori dal finestrino. Il quartiere era cambiato dal suo arrivo in America. Ci abitavano adesso molti portoricani. Interi isolati di edifici erano stati demoliti. Ciò nonostante, capitava ancora di quando in quando di scorgere un'insegna in Yiddish e qua e là una sinagoga o un'accademia rabbinica, un ospizio per vecchi. In qualche posto da quelle parti c'era la sede dell'associazione Civka Landslide, che Herman faceva il possibile per evitare. L'autobus passò davanti a ristoranti kasher, a un cinematografo yiddish, a un bagno rituale, a una sala che poteva essere noleggiata per le nozze e a un'impresa di pompe funebri ebraica. Herman scorse giovincelli con riccioli sulle tempie più lunghi di tutti quelli che aveva veduto a Varsavia. Avevano in testa cappelli di velluto dall'ampia tesa. Proprio in quel quartiere, e dall'altra parte del ponte, a Williamsburg, si erano stabiliti i chassidim ungheresi e alcuni chassidim tedeschi che rifiutavano addirittura di riconoscere lo Stato di Israele. A East Broadway, dove discese dall'autobus, Herman intravide attraverso la finestra di uno scantinato un gruppo di uomini bianco barbuti che studiavano il Talmud. I loro occhi, sotto sopracciglia folte, avevano espressioni penetranti da persone erudite. Le rughe sulle loro alte fronti gli ricordarono le righe tracciate sulle pergamene che servivano agli scrivani per tenere ben allineate le lettere. Le facce dei vecchi riflettevano una sofferenza caparbia, antica quanto i testi che essi studiavano. Per un attimo Herman si trastullò con l'idea di unirsi a loro. Quanto tempo sarebbe passato ancora prima che egli stesso avesse la barba grigia? Ricordò quello che aveva saputo da un proprietario a proposito delle circostanze della venuta in America di Reb Abraham Nissen Jaroslawer, alcune settimane prima che Hitler invadesse la Polonia. A Lublino egli era stato il proprietario di una piccola casa editrice che pubblicava libri religiosi rari. Aveva deciso di recarsi a Oxford per copiare un antico manoscritto scoperto laggiù. Nel 1939 era venuto a New York a cercarvi i sottoscrittori di un'edizione di quel manoscritto e l'invasione nazista gli aveva impedito di tornare in patria. Perduta la moglie, si era però risposato a New York con la vedova di un rabbino. La nuova moglie, Sheva Hadass, lo aiutava. Entrambi si erano impegnati a osservare il lutto, un giorno alla settimana, tutti i lunedì, per i martiri d'Europa. In quel giorno digiunavano, sedevano su bassi sgabelli, senza scarpe, soltanto con le calze, e osservavano tutte le norme della Shiva. Herman si avvicinò alla casa di East Broadway e alzò gli occhi sbirciando le finestre dell'appartamento di Reb Abraham Nissen al pian terreno. Vi erano appese mezze tendine, come quelle che si usavano in patria. Salì la breve rampa di scale e suonò il campanello. A tutta prima, nessuno venne ad aprire. Porta, come se le persone, là dentro, stessero discutendo per decidere se fosse o meno il caso di farlo entrare. Infine, la porta si aprì adagio e una vecchia, ovviamente Sheva Hadass, apparve sulla soglia. Era bassa di statura, magra. Aveva le guance rugose e la bocca infossata, portava un paio d'occhiali sul naso a becco. Con il vestito dal colletto alto e la cuffietta, sembrava precisa le pie donne di Polonia. Non esisteva traccia dell'America nel suo aspetto, né alcuna indicazione di fretta o di uno stato d'animo agitato. A giudicare dai suoi modi, si sarebbe detto che quella riunione di marito e moglie fosse un evento quotidiano. Herman la salutò. E lei rispose con un cenno del capo. Percorsero un lungo corridoio d'ingresso senza parlare. Reb Abraham Nissen si trovava in piedi nel soggiorno, basso di statura, tarchiato, curvo, con la faccia pallida, una folta barba gialla e grigia e disordinati riccioli sulle tempie. Aveva la fronte alta e portava sul capo una sorta di zucchetto. Gli occhi castani, sotto le sopracciglia grigio-gialle, esprimevano al contempo fiducia e sofferenza. Sotto la veste sbottonata si poteva scorgere una camicia falandrata. Persino l'odore della casa sembrava appartenere al passato. Cipolle fritte, aglio, cicoria, cera. Reb Abraham Nissen fissò Hermann e il suo sguardo parve dire: «Le parole sono superflue». Egli sbirciò la porta che dava su un'altra stanza. «Falla entrare», ordinò a sua moglie. Con calma la vecchia uscì. Reb Abraham Nissen disse: «È un miracolo del cielo!» Parve che ci mettessero molto tempo. Una volta di più, a Hermann sembrò di udire una discussione bisbigliata. La porta si aprì e Shiva Haddas fece entrare Tamara nella stanza, come se stesse conducendo una sposa sotto il baldacchino nuziale. Hermann vide ogni cosa contemporaneamente. Tamara era un pochino invecchiata, eppure sembrava sorprendentemente giovane. Vestiva all'americana e si era ovviamente recata in un salone di bellezza. Aveva i capelli di un nero corvino, dal lustro artificiale della tintura fresca. Aveva le gote imbellettate, le sopracciglia depilate, le unghie verniciate di rosso. Fece pensare a Hermann a una pagnotta di pane raffermo messa in un forno caldo per farla diventare croccante. Fino a quel momento egli avrebbe giurato che se ne ricordava perfettamente le fattezze, ma a questo punto notò qualcosa che invece aveva completamente dimenticato, una piega all'angolo della bocca. Vi era sempre stata e le dava un'espressione nella quale si accomunavano irritazione, sospettosità e ironia. La fissò, lo stesso naso, gli stessi zigomi, la stessa linea della bocca, lo stesso mento, labbra e orecchie identiche. Udì se stesso dire: «Spero che tu mi riconosca». «Sì, ti riconosco», rispose lei. Ed era la voce di Tamara, anche se quando la piazza si era avevano sorvegliato. Reb Abraham Nissen fece un cenno alla moglie ed entrambi uscirono dalla stanza. Hermann e Tamara rimasero silenziosi a lungo. «Perché è vestita di rosa?» pensò lui. Il suo imbarazzo era cessato e ora provava un senso di irritazione per il fatto che la donna alla quale aveva veduto portar via i loro figli per essere uccisi poteva permettersi di vestire in quel modo. A questo punto fu lieto di non essersi cambiato per indossare il vestito della festa. Ridivenne l'Hermann che era stato un tempo, l'uomo che non andava d'accordo con la moglie, il marito che si era allontanato da lei. «Non sapevo che tu fossi viva», disse, e si vergognò delle proprie parole. «Questa è una cosa che non hai mai saputo», replicò Tamara con l'asprezza di un tempo. «Beh, accomodati, lì, sul divano». Tamara sedette. Aveva le calze di nylon. Abbassò il vestito che le si era alzato sopra il ginocchio. Hermann rimase in piedi, in silenzio, dall'altro lato della stanza. Gli accade di pensare che gli spiriti dei morti di recente dovevano incontrarsi in quel modo, pronunciando le parole dei vivi senza conoscere ancora il linguaggio dei defunti. «Come sei arrivata qui? In piroscafo?» domandò. «No, con l'aereo». «Dalla Germania?» «No, da Stoccolma». «Dove sei stata durante tutto questo tempo? In Russia?» Tamara apparve rimuginare sulla sua domanda, poi disse: «Sì, in Russia». «Soltanto stamane ho saputo che eri viva. Un testimone oculare ne dai medici che ti aveva dovuto fucilare». «Chi era?» «Nessuno è mai uscito vivo da lì, a meno che fosse un nazista». «Era un ebreo». «Non può essere. Mi colpirono con due pallottole. Una ce l'ho ancora in corpo adesso», disse Tamara, indicando il proprio fianco sinistro. «E non si può estrarre?» «Forse qui, in America», È come se tu fossi risuscitata dalla morte. Sì. Dove accade? A Nances? Alla stazione termale? In un campo di periferia. Riuscii a fuggire durante la notte, sebbene stessi perdendo sangue dalle ferite. Pioveva, altrimenti i nazisti mi avrebbero veduta. Chi era il gentile che ti ha nascosta? Pavel Cekonski. Mio padre aveva fatto affari con lui. Andai da Pavel dicendomi che altro potrebbe accadermi ormai. Nel peggiore dei casi, mi denuncerà. Ti salvò la vita? Rimasi là 4 mesi. Non potevano fidarsi di chiamare un medico. Fu lui il mio medico, lui e la moglie. Hai avuto loro notizie in seguito? Non sono più a questo mondo. Tacquero entrambi. Poi Tamara domandò. Com'è che lo zio non conosceva il tuo indirizzo? Hanno dovuto mettere un annuncio sul giornale. Non ho un appartamento mio, abito con qualcun altro. Avresti potuto lasciargli ugualmente l'indirizzo. A quale scopo? Non frequento mai nessuno. Perché? Avrebbe voluto risponderle, ma le parole non gli vennero. Scostò una sedia dal tavolo e si sedette sull'orlo. Sapeva che avrebbe dovuto domandare dei bambini, ma non ne era capace. Anche quando udiva altre persone parlare di bambini vivi e sani, provava qualcosa di simile al panico. Ogni volta che Jadwiga o Masha esprimevano il desiderio di avere un figlio da lui, cambiava discorso. In qualche posto, tra le sue carte, c'erano fotografie dei piccoli Yocheved e David, i suoi bambini, ma non osava mai guardarle. Non si era comportato con loro come dovrebbe fare un padre. A un certo momento aveva persino negato la loro esistenza e recitato la parte dello scapolo. Ed ecco lì Tamara, la testimone della sua colpa. Temeva che si sarebbe messa a piangere, e invece lei rimase calma e composta. «Quando venisti a sapere che ero vivo?» le domandò. «Quando?» «Dopo la guerra. Grazie a una coincidenza straordinaria. Una mia conoscente, un'intima amica in realtà, stava avvolgendo un pacco con un giornale yiddish di Monaco, e per caso vi ha letto il nome. Dove ti trovavi allora? Ancora in Russia?» Tamara non rispose, né egli ripeté la domanda. In base alla sua esperienza con Masha e con altri superstiti dei campi di concentramento tedeschi, sapeva che l'intera verità non si sarebbe mai saputa da coloro i quali erano riusciti a sopravvivere alla prigionia o ai vagabondaggi attraverso la Russia, non perché volessero mentire, ma perché riusciva loro impossibile dire ogni cosa. «Dove abiti?» gli domandò Tamara. «Che cosa fai?» In autobus. Herman aveva immaginato che ella gli avrebbe posto queste domande, eppure rimase ora immobile e silenzioso, come se fosse stordito. «Non sapevo che tu fossi viva e...» Tamara sorrise maliziosamente. «Chi è la donna fortunata che ha preso il mio posto?» «Non è ebrea. È la figlia del polacco nella cui casa mi nascosi.» Tamara meditò sulla sua risposta. «Una contadina?» «Sì.» «L'hai ricompensata in questo modo?» «Beh, in un certo senso è così.» Tamara lo fissava, ma taceva. Aveva l'espressione assente di uno che sta dicendo una cosa e ne pensa un'altra. «Che lavoro fai?» ripeté poi. «Lavoro per un rabbino americano.» «E che cosa fai per il rabbino? Rispondi alle domande sulle leggi rituali?» «Scrivo libri al posto suo.» «E lui che cosa fa? Balla con le shikshe?» «Beh, questo non è tanto lontano dalla verità quanto potresti credere. Vedo che hai già imparato molte cose qui negli Stati Uniti.» «C'era un'americana nel nostro campo», disse Tamara. «Era venuta in Russia per cercarvi la giustizia sociale e fu spedita immediatamente in un campo di concentramento, quello nel quale mi trovavo io. Vi morì di diarrea e di inebia. Ho in qualche posto l'indirizzo di sua sorella. Mi afferrò la mano, prima di morire, e mi fece promettere che avrei trovato i suoi parenti e detto loro la verità. Anche la famiglia di lei è comunista. Beh, così sembrerebbe.» «Non ti crederanno allora. Sono tutti ipnotizzati.» «La gente veniva deportata in massa nei campi. Prendevano gli uomini, li affamavano e li costringevano a lavori che avrebbero distrutto anche i più robusti in un anno. Lo vidi con i miei occhi. E se non l'avessi veduto, non ci crederei nemmeno io.» E a te che cosa accadde? Chiese Herman. Tamara si morse il labbro inferiore, scosse la testa, come per fargli capire l'inutilità di riferire l'incredibile. Quella non era la garrula Tamara che egli aveva conosciuto, ma un'altra persona. Gli attraversò la mente la riflessione bizzarra che forse non si trattava di Tamara, ma di sua sorella. Poi, a un tratto, ella prese a parlare. Quello che mi accadde non potrà mai essere raccontato in ogni particolare. La verità è che, in effetti, non lo so io stessa. Successero tante di quelle cose, eppure a volte immagino che non sia accaduto proprio niente. Dimmi che entro più quella mente tante cose, anche della nostra vita a due. Ricordo che giacevo su un tavolaccio nel Kazakistan, cercando di ricordare perché, durante l'estate del 1939, avessi portato i bambini a far visita a mio padre in quella stazione termale, ma non riuscivo semplicemente a trovare il senso né la ragione di quello che avevo fatto. In Russia segavamo tronchi nella foresta per 12, anche 14 ore al giorno. Di notte faceva tanto freddo che non riuscivo ad addormentarmi. Il fetore era tale che non potevo respirare. Molti là soffrivano di beriberi. A un certo momento una persona stava conversando con te, faceva progetti, poi all'improvviso taceva, le parlavi e non rispondeva, ti avvicinavi e constatavi che era morta. Sicché giacevo là e domandavo a me stessa perché non andai con Herman a Chivkov, ma non riuscivo a ricordare un bel niente. Questa, mi dicono, è una malattia psicologica, io ne sono affetta. A volte ricordo tutto, a volte niente. I bolscevichi ci insegnarono a essere atei, ma io continuo a credere che tutto sia predestinato. Il destino aveva deciso che io dovessi essere presente e vedere quei mostri strappare la barba a mio padre e insieme ad essa un brandello di guancia. Chiunque non abbia veduto mio padre in quel momento non sa che cosa significhi essere un ebreo. Io stessa non l'ho mai saputo, altrimenti mi sarei comportata come lui. Mia madre cadde ai loro piedi, ed essi la calpestarono con gli stivali, le sputarono addosso. Mi avrebbero violentata, ma avevo il maestro, e tu sai quanto sanguino. Oh, in seguito non le ebbi più, quelle emorragie cessarono completamente. Dove avrei venduto la donna il sangue se non a pane? Vuoi sapere che cosa m'accadde? Un granello di polvere, spazzato via da venti attraverso terre e deserti, non sa dire dove è stato. Chi fu la gentile che ti nascose? Fu la nostra serva. La conoscevi? Jadwiga. Hai sposato lei? Tamara aveva l'aria di essere sul punto di ridere. Sì. Scusami, ma non era un po' ottusa? Tua madre si burlava di lei, non sapeva nemmeno come mettersi le scarpe. Ricordo che tua madre mi raccontò come avesse cercato di infilare il piede destro nella scarpa sinistra e se le davano i soldi per comprare qualcosa li perdeva. Mi salvò la vita. Beh sì, presumo che la vita valga più di ogni altra cosa. Dove la sposasti? In Polonia? In Germania. Non esisteva nessun altro modo per ricompensarla? Ah, farei meglio a non domandarlo. Non c'è niente da domandare. Le cose stanno in questo modo. Ecco tutto. Tamara si fissò la gamba, alzò un poco la gonna e si grattò il ginocchio, poi si affrettò a ricoprirlo con la gonna. E dove abiti, Herman? Qui a New York? A Brooklyn. Fa parte di New York. Sì, lo so. Mi hanno dato un indirizzo là. Ho un taccuino pieno di indirizzi, mi ci vorrebbe un anno intero, soltanto per andare in giro a dire ai vari parenti come morì questo e come morì quest'altro. Ci sono già stata a Brooklyn. Mia zia mi ha indicato la strada e ci sono andata sola, con la sotterranea. Entrai in una casa e nessuno là sapeva una parola di Yiddish. Provai a parlare il russo, il polacco, il tedesco, ma conoscevano tutti soltanto l'inglese. Tentai il linguaggio a segni per far capire che la loro zia era morta. I bambini si limitarono a ridere di me. La madre sembrava una bella donna, ma senza la minima traccia di ebraico. La gente sa qualche piccola cosa, una goccia nell'oceano, di quello che fecero i nazisti, ma il mondo non sa niente di quello che ha fatto e che ancora sta facendo Stalin. Nemmeno quelli che vivono in Russia sanno tutto. In che cosa hai detto che consiste il tuo lavoro? Scrivi per un rabbino? Hermann annuì. Sì, in un certo senso. Vendo anche libri. Si sorprese a mentire, per abitudine. Fai questo nelle ore libere? Che genere di libri vendi? Libri yiddish? Yiddish, inglesi, ebrei. Sono un cosiddetto commesso viaggiatore. Dove viaggi? In varie città. E che cosa fa tua moglie quando sei via? Che cosa fa del matrimonio quando loro viaggiano? Qui in America vendere è una professione importante. Hai avuto figli da lei? Figli? No. Non mi scandalizzerei se ne avessi avuti. Ho conosciuto giovani ebree che hanno sposato ex nazisti. E riguardo a quello che fecero certe ragazze per salvarsi la pelle, beh, farei meglio a tacere. La gente diventa completamente depravata. Nel letto accanto al mio, fratello e sorella ci davano dentro, non riuscivano nemmeno ad aspettare che facesse buio. E dunque, che cosa ho più da stupirmi? Dove ti nascose? Te l'ho detto, in un fienile. E i suoi genitori? Non lo sapevano? Ah, la madre e una sorella, non il padre. Non lo sapevano. Naturale che lo sapevano. I contadini sono scaltri. Si dissero che dopo la guerra l'avresti sposata e portata in America. Andavi già a letto con lei, presumo, anche quando eri con me. Non andavo a letto con lei. Stai dicendo assurdità. Come avrei potuto sapere che sarei riuscito a ottenere il visto per l'America? In effetti la mia intenzione era quella di andare in Palestina. Lo sapevano, lo sapevano. Jadwiga potrà essere un idiota, ma sua madre ne parlò con qualche altro contadino e quelli l'aiutarono a farsi furba. Tutti vogliono venire in America. Il mondo intero muore dalla voglia di venire in America. Se ampliassero le quote di immigrazione, l'America sarebbe così gremita che non resterebbe più posto nemmeno per uno spillo. Non credere che sia arrabbiata con te. In primo luogo, non mi arrabbio più con nessuno. In secondo luogo, tu non sapevi che fossi viva. Mi ingannasti mentre vivevamo insieme, abbandonasti i tuoi figli, non mi scrivesti nemmeno una lettera in quelle ultime settimane, pur sapendo che la guerra sarebbe scoppiata da un momento all'altro. So di padri che misero a repentaglio la vita per attraversare frontiere, pur di trovarsi insieme ai loro figli. Uomini che erano riusciti a fuggire in Russia si consegnarono ai nazisti, tanto grande era la loro nostalgia per le famiglie. Ma tu rimanesti a Chivkav e ti infilasti in un fienile con la tua ganza. Come potrei anche soltanto fingere di avanzare pretese su un individuo simile? Bene, come mai non hai figli da lei? Non ne ho, e basta. Perché mi guardi in quel modo? L'hai sposata tu. I nipoti di mio padre non valevano abbastanza per te, te ne vergognavi come se fossero croste sul tuo cuoio capelluto. Per quale ragione non dovresti avere altri figli da Jadwiga? Suo padre era senz'altro un uomo più bello del mio. Beh, per un momento ho creduto che tu fossi cambiata, Tamara, ma vedo che sei sempre la stessa. No, non la stessa. Tu stai guardando una donna diversa. La Tamara che abbandonò i suoi figli assassinati e fuggì a Schiba è un'altra Tamara. Io sono morta. E il marito, quando la moglie muore, può fare come gli piace. È vero, questo mio corpo continua a trascinarsi qua e là. Si è trascinato persino a New York. Mi hanno messo calze di nylon, mi hanno tinto capelli, verniciato le unghie, che Dio m'aiuti. Ma le gentili hanno sempre reso più graziosi i loro corpi, e le ebree, al giorno d'oggi, sono gentili. Perciò non nutro rancore contro nessuno, né dipendo da nessuno. Non mi sarei stupita venendo a sapere che avevi sposato una nazista, una di quelle che danzavano sui cadaveri e affondavano i tacchi a spillo negli occhi delle fanciulle ebree. Come potresti mai sapere quello che accadde? Spero soltanto che tu non ti stia comportando con la tua nuova moglie come ti comportasti con me.